volevo fare solo una piccola considerazione. Per me è la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolto, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo e breve cronaca del primo tempo con voi in Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao direttore. Ragazzi, io vi adoro. Sentito la sigla 800240024, il lunedì, Sunday Monday Happy Days. Eh? Il lunedì di tutti i convocati, Franco Piantanide, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Mi pare che qualche tema da discutere ci sia. Il Milan ha provato a inseguire il Napoli, non c'è riuscito. Il Napoli ha provato a inseguire la Juventus e non c'è riuscita. Ha provato a inseguire il secondo posto in Champions League e c'è riuscito. L'Inter insegue, ormai insegue se stessa, insegue la finale di Coppa Italia, da cui dipende forse il suo destino, forse quello dei Stramaccioni, e tutti inseguono Alonso e nessuno lo piglia. 800240024, vi aspetto qui. L'aspetto psicologico e che conta. Stefano ha fatto molto bene, credo che sia stata la sorpresa del campionato in modo positivo, e è normale che deve crescere. Le ultime partite non era stata all'altezza di come di solito fa lui, ma non era secondo me una questione fisica, era più solamente una questione mentale. 18 punti a disposizione nel calcio, sono abbastanza esperto per sapere, lo dice il vecchio saggio Strapattoni, lo diceva sempre, fino a che non dire gatto se non l'hai nel sacco. Quindi è un episodio indiscutibile, un abbaglio, è un grande peccato. Anche qui Rocchi andava in porta agganciato col destro, era punizione d'espulsione. Cambiano le partite, no, io non credo che ci sia qualcosa che vada oltre l'errore. Però è innegabile che sicuramente un errore così ripetuto a distanza di una settimana, ma Silvestro ha levato proprio il piede, cioè incredibile, l'arbitro era a 15 metri, non era in palla, a 5 metri, cioè Silvestro leva il pallone e lui si tuffa clamorosamente, ma come fai a dare questo? Essere terzi in qualifica ci offriva molte possibilità di fare cose buone, però Kimi era sicuramente il rivale che temevamo di più per il suo degrado delle gomme normalmente molto basso. Al sorpassarlo in partenza questo è diventato già un problema in meno e la vittoria era più vicina. Allora, questo è il succo della domenica. Allegri, Mazzarri che fa il Trapattoni. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma ieri sera nel sacco ha messo il secondo posto. Mi ero sbagliato. E allora c'è chi ha il coraggio di fare i pronostici e chi non ce l'ha. 800240024, Stramaccioni che sapevo che fare. Stramaccioni mi mette tenerezza, perché dimostra come in 12 mesi si possa passare dalla freschezza, dal buon umore. Io non dimentico quell'imitazione di Cassano, che è stata una delle cose più belle, quando Cassano ancora era del Milan, delle cose più belle che ho sentito negli ultimi 12 mesi calcistici. Ebbene, è stato consumato dalla stagione dell'Inter, è stato consumato da una serie di infortuni, dalle eterne discussioni, dalla panchina più difficile d'Italia se non d'Europa, dagli arbitri che, cioè, ieri ha ragione, il rigore, quel rigore non c'era, ce n'era un altro provocato da Kuzmanovic, però quando l'aria tira al contrario è questo che succede. Se poi vogliamo tirare in ballo la mala fede a beneficio di chi, ancora non ho capito, facciamolo pure come ha fatto Moratti o come ha fatto Bonolis. C'è chi scrive, oltre a chi telefona 800240024, numero verde, avevi sussurrato Milan, Juve e Milan avanti in Champions League, Milan vittorioso sul Napoli, e se tutti convocati, e se i tutti convocati iniziassero a giocare sulle tue intuizioni al contrario. Bravo Domenico, hai ragione, però ripeto, c'è chi pronostici ha il coraggio di farli e chi no. Milan ce l'hai avanti... cascato, scemo. C'è sul Milan avanti in Champions League, non mi pare. La Juve col Bayern Monaco non credo. Avevo certamente pronosticato Milan secondo, Napoli terzo, cosa che non si verificherà più. Juventus 71, Napoli 63, Milan 59, Fiorentina 55, Lazio 51, Roma 51, e queste sono secondo me quelle che faranno l'Europa. 800240024, Giulio Savona, Franco da Roma, e poi abbiamo anche un ospite. Giulio, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo semplicemente dire questo: posso capire tutto su quanto concerne l'Inter, che c'è la mala sorte, mica la mala sorte, ma io vorrei lanciare una provocazione come fece suo padre Angelo Moratti nel 1961, quando schierò a Torino tutta la primavera, eccetto Sandro perché? Mazzola. Perché? E potrebbe? Ma perché? Siccome che giustamente Moratti si lamenta e Stramaccioni si lamenta perché ormai il vento è tutto contrario, tutto a sfavore della beneamata, oggettivamente mi sembra anche ragionevole questa forma qua, perché i soldi chiaramente loro ce li mettono, e se si continuano a mettere i soldi e arrivano solamente pesciati in faccia, non è oggettivamente una cosa regolare, è quello che vedo io, a prescindere dal fatto che l'Inter è una squadra che non ha niente a che vedere, l'Inter è una squadra con che i primi cinque sì, posti, esatto, hanno a che vedere dal decimo posto in giù. Senta, ma l'Inter è una squadra che a mio parere merita la classifica che ha, poi vogliamo dire allora che il Cagliari sta nella manica degli arbitri, perché ha ricevuto, se non sbaglio, 10 rigori in questa stagione ed è capo classifica in questa speciale graduatoria. Poi schierare la primavera, mosse dimostrative, io non lo so, l'Inter è una squadra ridotta ai minimi termini che in questo momento a mio parere vale la classifica che ha. Ha davanti mercoledì la possibilità di arrivare alla finale di Coppa Italia, io la vedo sfavorita, dico la verità, in questo confronto con la Roma, ma mi sembra una squadra veramente ridotta all'osso. Davvero non capisco come sia possibile fare di più. Io ricordo l'inizio dell'Inter, quella che sembrava la genialata di Stramaccioni, con le tre stelle davanti e un centrocampo che li supportava e palloni lunghi a beneficio di queste tre stelle che segnavano, che divertivano, eccetera eccetera. Poi le stelle si sono spente tutte quante, quasi tutte insieme, e allora adesso mi pare si vada avanti per tentativi. La cosa più preoccupante è che non si vede mezzo mattone per il futuro. Strade. Male, male, ma vuole bene, bene. Male, male, male, male. Un disastro. Tutti convocati. Ragazzi, le dichiarazioni dei politici sono un pianto greco e lo sapete bene, però sono peggiori ancora quelle dei protagonisti del calcio, perché io non ne posso più di sentire Abete che dice il calcio italiano manca degli impianti, non ne posso neanche più di sentire Prandelli che dice non ci sono i soldi e allora ci vogliono le idee. Vogliamo chiudere il rubinetto dell'acqua calda e dire qualcosa di interessante? Lor signori, dai, ce la possiamo fare. Serve Mourinho di ritorno? Non arriverà quest'anno, l'ha detto lui. Franco Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Intanto mi faccio i complimenti per l'intelligenza e equilibrio che lei professi. Ha detto bene lei, che è più sporco di quella che è la politica. Sporco in senso... Ma no, sporco, più banale, no, più noioso. In senso configurato, più, dicevo io. Più noioso, più noioso. La chiamo per questo. Io ho sentito questa mattina quella trasmissione in cui lei faceva riferimento e ha allucinato, la diabete, chissà, eccetera. A tal proposito volevo dirle questo, che il Malaga... che è stato veramente defraudato nella vittoria sacrosanta, non ha soldi che mi risulti, non ha sponsor che mi risulti, è arrivato molto oltre le altre squadre, tipo anche Juventus. Sì, Malaga è l'unica squadra, a parte lo sceicco d'oro finto di Roma, mi sembra l'unica squadra che ha beccato uno sceicco che non c'ha i soldi, che non, o comunque che non li caccia. Ma io le ho chiamate un altro motivo. Diga. Ieri sera, dopo la partita di Milan-Napoli, le permetto, che io sono un tifoso del Napoli, anche se sono di Roma e nato a Roma, sì, sono rimasto allibito, e se avessi avuto il suo numero di telefono l'avrei chiamata, pensa che tragedia, sì. Certo, lei potrebbe essere sotto, per rappresentare il mio indegno rispetto a quelli che sono stati i commentatori Sky, che sono i signori Bergomi e i signori Caressa. Stamattina prendo il giornale, il Corriere e il Corriere della Sera, tutte e due il Corriere della Sera lo prendo perché leggo i cattivi sconcerti che mi sembrano molto mirati, e cioè, e vedo a pagina 17 il Corriere della Sera la telecronaca rossolera del Nerazzurro, ho detto che ti si voglio. Le leggo due righe tanto per far capire. A un certo punto pensavamo di essere finiti per caso con il telecomando di Sky sulla telecronaca tifosa, quella dove c'è un altro ultra che da loro, i suoi hanno sempre ragione. È stato allucinante. Il Mani non è più il Mani. L'incidente avuto dalla quell'incidente gravissimo su cui non è più questo. Ma perché questa sopravvalutazione di come viene commentata la partita? Perché non. Non so, se non piace si leva, ormai con tutta la tecnologia che c'è si può anche levare la voce del telecronista, si può sentire l'effetto dello stadio, non mi sembra così determinante. Il Napoli ieri sera secondo me ha giocato una grande partita, è stato uno splendido primo tempo, no? Alberto Cerruti, buongiorno a lei, penna del calcio sulla Gazzetta dello Sport. Allora, il Napoli va a giocare una grande partita a San Siro con El Shaarawy, che viene tenuto in panchina perché era stanco psicologicamente, povero ragazzo. L'Inter sprofonda e non sa più dove andare, mi sembrano questi due temi della settimana, mentre non ce ne sono molti altri in questo finale di stagione. Alberto, diciamoci la verità. Sì, diciamo che purtroppo l'Inter non fa più notizia. Ieri sera guardavo il telegiornale e mi sono stupito del fatto che non si fosse fatto un cenno alla sconfitta dell'Inter contro il Cagliari. Si è parlato della Formula 1, del golf, ecco, questo fa capire dove è precipitata l'Inter, e ci stiamo tristemente abituando al declino di questa squadra, direi di questa società. E quindi è più appassionante la corsa per il secondo e terzo posto, grande Napoli, grande. Senti, ma per quale ragione? Per quale ragione? Ma userei il plurale, quali ragioni? Per quali ragioni ci stiamo tristemente vedendo affondare la nave che aveva conquistato il mondo? Ma perché io penso che dopo il famoso triplete Moratti si sia illuso che quella fosse una squadra più forte per sempre, senza rinnovare, senza cambiare, e quindi ci sono stati degli errori che si sono ripetuti, errori da parte di tutti, negli acquisti, nelle cessioni, errori anche nello staff medico, perché gli infortuni non sono soltanto sfortuna ma sono anche colpe dello staff medico che non recupera i giocatori in tempo, e poi naturalmente le colpe dell'allenatore. Questo è un allenatore assolutamente inadeguato, non ha esperienza, non ha le qualità per stare sul panchino dell'Inter, e ovviamente anche colpe dei giocatori, quindi responsabilità da parte di tutti. Ma io metto sempre in testa il presidente in qualunque società, perché i meriti e le colpe partono dal presidente. Quali secondo te le principali colpe di Moratti? Quello di non avere preso un uomo forte dopo Mourinho, avrebbe dovuto puntare su Capello, invece ha scelto allenatori dei quali non era convinto, da Benitez a Gasperini, poi ha sempre cambiato in corsa. Ranieri, che poteva essere un allenatore di esperienza, è stato mandato via con eccessiva fretta. Sì. Puntare su Stramaccioni voleva dire soltanto risparmiare dei soldi sull'allenatore, e poi l'errore principale, questo coinvolge i collaboratori, quello di non avere dato una linea, perché o si punta decisamente sui giovani oppure si punta sugli anziani. Invece l'Inter di oggi non è né una squadra che ha un futuro per i giovani, né una squadra che ha un presente con i vecchi. Bravo, la cosa più preoccupante è quella che non c'è una visione per il futuro, mentre esatto, nel Milan, esatto, nella Roma, esatto, nel Napoli, nella Juventus si vede un futuro, nell'Inter esatto, qui non c'è un mattone, non c'è un mattone. E questo è l'aspetto più preoccupante, a prescindere da chi l'allenerà il prossimo anno. Esatto, non c'è un mattone su cui puntare per il futuro. Poi ci sono ascoltatori che mi fanno nomi, Juan, Ranocchia, Kovacic, Guarin, Palacio, aggiungerei Handanovic, però il problema vero è che non è stato fatto un passo verso il futuro. Devi dire che Stramaccioni l'ha scelto Moratti ed è per questo che è stato difeso molto di più di un Benitez o di un Gasperini qualunque che Moratti non voleva. Sì, la spiegazione, lui l'ha difeso giustamente, ma gli allenatori vanno sempre difesi, ma io dico che andava difeso anche Ranieri l'anno scorso, che aveva vinto 7 partite consecutive come Stramaccioni quest'anno. Lui lo ha difeso perché lo ha scelto lui e perché non costa molto. E perché Stramaccioni dice sempre di sì, ha detto di sì alle cessioni di Pazzini, alla cessione di Schneider, ha detto di sì a certi acquisti che sono stati sopravvalutati come quello di Pereira, e quindi Stramaccioni dice sempre di sì, cerca sempre il consenso dei giocatori anziani, dei giornalisti, dei dirigenti, e così non si costruisce nulla, non ha dimostrato di avere personalità, e la personalità la si ha anche quando si è giovani, non è una qualità che si acquista con l'età, con il tempo, sì. Con l'età si acquista l'esperienza, non la personalità, sì. Stramaccioni ha dimostrato di non essere da Inter proprio perché non ha avuto personalità, non ha fatto delle scelte forti e coraggiose, e oggi il difetto maggiore che tutti gli riconoscono è quello di non avere creato una squadra, perché nessuno, al di là degli infortuni che ci sono, è in grado di dire quale sia la squadra, esatto, questo è vero, tipo dell'Inter, non esiste la squadra. Questo tipo è vero, questo è vero, esisteva forse all'inizio in quella idea, in quell'utopia forse dei tre attaccanti. Senti Alberto, per chiudere, Juventus 71 campione d'Italia, Napoli seconda 63, Milan 59, secondo me questo sarà l'ordine di arrivo, a prescindere dai punti che ci saranno. Sono abbastanza sicuro sul primo posto della Juve, sul secondo del Napoli, mi tengo un piccolo dubbio sul terzo, perché secondo me il Milan è in grossa flessione fisica e la Fiorentina è una squadra fresca, soprattutto perché se la Fiorentina arrivasse a pari punti del Milan, scavalcherebbe il Milan per i confronti diretti, sì. Quindi lascio ancora un margine per la Fiorentina. Attenzione, quel terzo posto è importante. Alberto Cerruti, ti ringrazio. Grazie a voi, buona giornata, buona settimana. Grazie Alberto Cerruti, Gazzetta dello Sport. Adesso andiamo con la top 3 delle dichiarazioni del fine settimana, a cominciare da Oriali, i mali dell'Inter. Sì, ciao Andrea, no, condivido quello che ha detto Andrea. Devo dire che appunto l'Inter poi, da quando ha cominciato a essere fastidiata da questi infortuni, da qualche decisione arbitrale anche sbagliata se vogliamo, però io credo che, conosco un pochino gli infortuni, mi sembrano un pochino troppi, no? I recuperi mi sembrano un po' troppo lunghi, e Andrea, devo dire che anche i 45 gol subiti mi sembrano tanti. Allora, Oriali molto chiaro sui mali dell'Inter. Adesso attenzione, Andrea Azzoli, tecnico della Roma. 800-24-0024 vale anche questo tema, eh? Che fa il cascamorto con l'aria d'amico. Wow! Grazie, anche lei si la trova così, è vero. Andrea Azzoli, posso, bocca al lupo, eh? Posso dire, vedo che è arrivata la primavera, complimenti. Grazie, lei. Gli potevo uscire meglio, però Dio buono. Non trovate, So, poteva essere un filino più brillante. 800-24-0024, io avrei detto cose diverse, perfido come sono. Ma lasciamo stare. Allora, il rigore per il Cagliari contro l'Inter c'era tutta la vita. Sentite Piniglia. Sì, ho controllato la palla, sono andato verso la porta, poi sterzato sulla sinistra. Appena ho sentito il tocco mi sono buttato, perché è rigore. Quando toccano in aria l'attaccante deve essere anche bravo a capire la giocata, quindi buttarsi. A buttarsi no, quando ti toccano è rigore. Perché? Mi ha toccato comunque. Perché sì, certo, mi ha toccato, non te lo vedete sulle immagini. Ha toccato, era un chilometro di distanza, fate i bravi. 800-24-0024, dai, torniamo dopo, vi aspetto. Lo dice il vecchio saggio Strapattoni, lo diceva sempre, fino a che non dire gatto se non l'hai nel sacco. Cazze in nissaghe, ovvero non dire gatto. Il resto l'abbiamo capito. Il resto lo si sa. Tutti convocati. Tocca a me, eh? Sicuri? Sicuri? Ah, perdonatemi amici miei, ma non avendo un euro in tasca, tantomeno delle azioni in borsa, ho perso il filo totalmente di quello che stavo dicendo. Allora, c'è chi telefona 800 24 00 24, numero verde, vi voglio tutti convocati, sempre, ogni giorno, fate esplodere quel dannato centralino, tanto c'è Rosa è contenta. Poi mi fa dei mazzi così. Allora, c'è chi scrive 349-238-6666, ricostruire l'Inter in due mosse, che poi sembrano tre: uno, non qualificarsi per l'Europa League; due, tenere Handanovic, Kovacic, Juan Jesus, Guarin, Palacio e basta, più moltissimi giovani a partire da Longo, Livaia, Caldirola, Obi, Benassi, tutto il resto va azzerato, lo scrive Giacomo. Intanto c'è chi invita a sottolineare, a ricordare l'infortunio di Kobe Bryant, che ha segnato in sospensione con una caviglia che, se ce l'ho io, nemmeno con le stampelle ci riesco. Kobe Bryant fuori per tutta la stagione, ma Los Angeles Lakers che vincono contro San Antonio grazie a Dwight Howard e vedono il traguardo dei playoff. 800 24 00 24, Roberto Trieste, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ieri, dopo la bellissima vittoria di Alonso, ho detto chiamo il 30 e festeggiamo assieme. Adesso l'ho fatto, poi però ho sentito, io sono interista, sì, ho sentito ancora se la mentele, io basta, cioè, finiamo, non faccio, non quali, no, quali delle tante? Che sono gli arbitri, che sono cosa, cioè, Moratti è uno che è incapace, non c'entra niente i soldi importanti, perché voglio vedere con tutti i soldi che ha speso lui. Tra l'altro sto leggendo adesso un'ansa che l'Inter è costata nel 95 1,5 miliardi di euro, ok? Quindi lì è un problema di intelligenza, gliel'ho scritto, gliel'ho anche twittato, gente. È un problema di intelligenza dell'Inter, di gestione. Mi domando, e questo volevo anche sapere, come mai è arrivato Mourinho? Cioè, è stato il miracolo. Mourinho? Cosa è successo? Come è successo questo? È successo... Come è arrivato Mourinho? Sì. Cioè, voglio dire, beh, Mourinho è arrivato in un momento in cui Moratti aveva ancora molti soldi da investire nel calcio, si è imbaghito di questo allenatore che secondo me è il più bravo del mondo nel gestire le grandi squadre, aveva soldi da investire ancora nella società, è arrivato Mourinho, poi io ho un'idea un po' perversa, Moratti si è anche stufato del fatto che Mourinho gli rubasse il palcoscenico e che ci fossero così pochi microfoni sotto la sede sotto il suo ufficio ogni giorno che andava a lavorare, perché Mourinho su queste cose non aveva mezze misure. Parlo io, la squadra la decido io, la comunicazione la faccio io, i giocatori li scelgo io e voi fate il vostro lavoro, presidente, direttore sportivo è direttore sportivo, magazziniere è magazziniere e ognuno sta al suo posto. No? No. Sì, invece. È un problema psicologico di Moratti. Ma non psicologico. Psicologico è una parola grossa. È una gestione determinata dall'enorme amore che Moratti ha per l'Inter, e su questo non c'è discussione, dalla grande quantità di denaro che Moratti ha buttato nell'Inter. Però stiamo ancora raccontando le solite favole, cioè c'era una guida, ma lo stesso Mancini era una guida, perché era uno che, lasciamo stare il pregresso, era uno che aveva le sue idee, aveva la personalità per imporsi ed imporle. Mourinho era la versione evoluta di Roberto Mancini, e poi è venuto da quella notte del Bernabeu è arrivato il grande casino, come era già in anni precedenti, no? Quindi mi sembra questa una chiave di lettura molto semplicistica, ma anche abbastanza realistica. Alessandro, Bologna. Sì, salve gente. Salve. Mi complimento col tifoso interista che mi ha preceduto, perché è una mosca bianca. Più o meno parlare dello stesso argomento. Volevo che lei mi spiegasse con motivazioni logiche, proprio cartesiane, no? Perché in una partita nella quale c'è un errore arbitrale netto a favore dell'Inter e uno subito dopo contro l'Inter, per quale ragione bisognerebbe dare, come fa Stramaccioni, ma anche quelli, i tifosi dell'Inter che più o meno fanno finta di credergli, oppure tutto il codazzo, eccetera, fare finta di credere che conti solo il secondo, cioè sono stati due errori che, anche se ovviamente non peggiorano la prestazione arbitrale, però se fossero state due decisioni arbitrali corrette, l'esito della partita, anche visto la qualità del gioco, sarebbe stato lo stesso. Quindi insomma mi sembra che si stia andando oltre questa falsificazione, perché il secondo rappresenta un alibi, il primo invece no, quindi è chiaro che l'errore arbitrale e la denuncia dell'errore arbitrale, per non dire la denuncia dell'onda arbitrale contraria, io la leggo sempre come punto primo un segnale di debolezza e punto secondo come un grande alibi per coprire altre mancanze. È questa l'interpretazione molto cruda e molto crudele che io do nei confronti di chiunque si lamenti o faccia dossier o faccia rimostranze contro gli arbitri, perché poi le partite sono, a me piace guardarle nel loro insieme, nel loro contesto. C'è chi perde 4-0 e si lamenta degli arbitri e io impazzisco in questi casi. Prima di Mustafa da Vicenza, allora Mustafa stia lì perché le regaliamo l'Oscar del gol della domenica. And the Oscar goes to La Mela, ancora La Mela col sinistro, La Mela! Che bellezza! 2-1, ha segnato La Mela e la Roma è di nuovo in vantaggio al 15° del secondo tempo. Il gol di Eric La Mela. Gol numero 14 di La Mela, vale il prezzo del biglietto per la difficoltà, per la bellezza, però ha segnato anche un altro argentino, Osvaldo, se ne sta parlando tanto. È uscito un po' dal letargo segnando questo gol dopo 2 mesi e mezzo dall'ultimo gol, l'ultima rete? No, per un attaccante si sa che il gol è qualcosa di particolare. Sono contento per lui che è riuscito a realizzarlo oggi, un gol molto importante al suo rientro e dopo una settimana un po' turbolenta. Tu sei bravo, ma che bravo? Sei bravo, no, tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Che giocatore La Mela, ragazzi. Mustafa da Vicenza. Salve. Salve. Voglio fare complimenti per voi. Gracias. Per la trasmissione fantastica. Grazie. Ascolta, voglio parlare di mondo di Formula 1 e moto mondiale. Sì. Sto sperando, continuo a sperare di vedere una delle gare magari in Africa. Una delle gare in Africa? Sì, magari, perché vediamo i gran premi dappertutto, da tutto il mondo, dall'Australia, Asia, Europa, Africa, cioè, no, Africa no, c'è cioè America, Bahrain, America, ma... Emirati Arabi, eccetera. Sì, sì. Vabbè, mi confesso, sa da cosa dipende. Perché abbiamo visto l'ultimo mondiale di calcio voluto in Africa, è stato un successone. In Africa, certo. Sto sperando magari di vedere anche un gran premio di moto mondiale, di Formula 1, anche perché stanno perdendo moltissimi tifosi, appassionati, che purtroppo non conoscono questo mondo posto che è solo ed esclusivamente una questione di? Non lo so perché. Come non lo sa? Di grano? Di soldi? Di dollari? Magari troveranno un investitore che possono fare, anche perché Formula 1. Sì, ma certo, insomma, è solo una questione di denaro, perché il calendario viene stirato in base al denaro, non è che vanno a correre in Bahrain perché tra l'altro con problemi di sicurezza che conosciamo, non è che vanno a correre in Bahrain intanto per divertirsi o perché scelgono un punto a caso sulla mappa geografica. Questi circuiti, questa organizzazione è fondata solo ed esclusivamente sul denaro, quindi vanno a correre laddove ci sono soldi. Questa è semplicemente, questa è l'unica ragione sulla base della quale vengono stirati i calendari e vengono decise le sedi delle gare della Formula 1 e del Moto Mondiale. Non ci sono altre ragioni. Grazie Mustafa. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. We'll be right back. voleva parlare Mustafà, ne volevo parlare anch'io. Allora mi vengono in mente le parole di Alonso del venerdì: a Massa ha fatto meglio di me i primi gran premi della stagione. Ah, non dormo di notte, mangio solo riso bianco e mi stanno cadendo tutti i capelli. Ve le ricordate quelle parole? Ieri in Cina Alonso, cioè il miglior pilota del mondo, vince, porta la vittoria alla Ferrari in maniera meravigliosa davanti a Raikkonen ed Hamilton. Poi dice: beh, questa è la gara perfetta, forse da oggi, questo non l'ha detto, lo aggiungo anch'io, comincio a mangiare qualcosa di diverso. Voci. Gli stai dando 3-4 decimi a settore, Fer, no need to push. I'm not pushing. Sì, oggi abbiamo dominato di più. Penso le tre vittorie dell'anno scorso sono sicuramente inspiegabili. Oggi è stata una gara un po' più normale, che abbiamo riuscito a usare la nostra pace. La squadra è stata perfetta dall'inizio alla fine, come setup, come strategia, come pit stop, le chiamate al pit stop e anche i pit stop stessi. Quindi quando metti tutto insieme, vincere un Gran Premio di Formula 1 rimane sempre una cosa molto molto bella. Fenomenale, fenomenale, grande weekend, c'era tanta pressione, però grande weekend, ordinati, tranquilli, questa è la nostra forza, ti meriti questo successo Fer, complimenti da tutti noi, complimenti da tutti noi e complimenti alla squadra. Ma è bellissimo, è sembrato di riviverla dalla macchina di Alonso questa gara con Andrea Stella, il suo ingegnere di pista. Quindi insomma, ha dato una certa suggestione. Già, chi sottolinea che il Gran Premio in Sudafrica c'è già, il Gran Premio, ricordo, c'era già ai tempi a Kyalami. Quindi è una cosa storica il Gran Premio del Sudafrica, per rispondere a Mustafa. Ma il Sudafrica è una, quest'anno naturalmente non c'è, ma è una. È un ambiente, è una, come dire, una realtà diversa da quella dell'Africa nera a cui si immagino si riferisse, o dell'Africa in generale a cui si riferiva il nostro ascoltatore. 800 24 00 24, numero verde. Maurizio Chieti. Sì, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Ascolti, premessa, tifoso del Napoli, tifoso della Ferrari, quindi la giornata di ieri... Baldoria assoluta. Baldoria assoluta, un sole meraviglioso qui che ha baciato l'Abruzzo e continua a baciarlo. E nel mezzo del mezzo ci metto anche che finalmente forse ho trovato un allenatore che piange più di Mazzarri, vale a dire il Stramaccioni. Questa è meravigliosa. Perché più di Mazzarri è dura. Più di Mazzarri, no, ma me lo lasci. Sono tifoso Mazzarri del Napoli, per cui un pochettino insomma mi lasci quantomeno. Va bene, questa gliela concedo, ma non la condivido. Va bene. Ok, anche perché voglio dire, ieri insomma, a parte che ci sta facendo ridere insomma da un po' di domenica Stramaccioni, poverino, però devo dire, devo ammettere che anche insomma non sono tutte colpe sue, perché alla fine avere no, è vero, non sono tutte colpe sue, ma sono ci sono molte colpe sue, perché non vale la soluzione tout court, non vale il discorso che è giovane, che ha la prima esperienza eccetera eccetera, delle responsabilità le ha. Certo, ha delle responsabilità, delle responsabilità dirette o indirette, ha avuto una moria di giocatori che neanche nella grande guerra c'erano degli eccidi così clamorosi. Sto scherzando, naturalmente. Dica. A questo punto lo staff tecnico di Mazzarri, diciamo, a parte il discorso del lamentarsi quando le cose non vanno bene, devo dire che arrivato a questo punto toccherebbe fare un elogio allo staff tecnico di Mazzarri per quanto riguarda i giocatori del Napoli. Maurizio, io faccio un elogio al Napoli alzandomi in piedi, lo faccio sul serio. Senta, alzo anche il microfono, elogio al Napoli alzandomi in piedi e inchinandomi, perché il Napoli è la squadra che che ha fatto un altro miracolo, è una squadra che ha spremuto più punti rispetto a quanti non potesse averne, quindi arriverà secondo e io un elogio a Mazzarri e al Napoli lo faccio in piedi e mettendomi sull'attenti. Detto questo, i lamenti si sprecano e non sono d'accordo sul fatto che ci sia un allenatore che si lamenta più di Mazzarri, nemmeno Stramaccioni. Grazie Maurizio. Paola, provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono reduce da due derby nello stesso giorno, uno di basket è andato stra bene e uno di calcio. Perché Varesina, sì vabbè, ok, ho capito. appunto, quello di calcio è andato un po' così così, sono della Sampdoria. Vabbè, forse per loro è andato ancora peggio, però mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Beh, insomma, un punto di qua, due punti di là, non male, no? Sì, diciamo che quello di basket invece è andato, diciamo, pensavo di vincere, ma non così. Sì, questo dà la misura della grandezza di Varese, della bellezza di Varese e della povertà di spirito, direi, di Milano. Non riesco proprio a capire che vinca questo scudetto, ma spero che questo scudetto della pallacanestro non finisca né a Milano né a Siena e per questo io faccio il tifo. So, Varese, Sassari, Roma, queste squadre sono quelle che meritano il titolo di pallacanestro e spero che nei playoff si segua la falsa riga della regular season. Beh, Paola, grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Un abbraccio, grazie, ciao. Gianluca, Napoli, e poi vi faccio sentire una cosa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto scusa per la voce, ma sono gli inconvenienti che del tifo. Pandev ha procurato direttamente. Fammi l'urlo di quando ha segnato Pandev. Non posso perché no, non me ne è rimasta. Fa niente, fallo con la voce che hai. Cos'era questo? Anche perché ero in mezzo ai milanisti e quindi non potevi farlo. Minuti prima ce ne avevano tirate di tutti i colori. Sì. Volevo dire una cosa, sono un tifoso del Napoli ovviamente, però in controtendenza. Nel senso che non sono un grandissimo estimatore di Mazzarri e le spiego perché. Quando sono uscito ieri da San Siro ho avuto la netta sensazione che la differenza fondamentale che c'è tra noi e la Juve è che una partita come quella di ieri sera la Juve la vince. Eh sì, la Juve vince anche lo scudetto, ma il Napoli arriva secondo. Comunque mi sembra un grandissimo risultato. La Juventus è più forte del Napoli, il Napoli è più forte, è meno forte di alcune squadre che le stanno dietro. Il Napoli ha fatto una stagione meravigliosa. Grazie a tutti, adesso vi lascio con una bella perla della conferenza stampa che precede Lazio-Juventus di stasera. Franco Piantamini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2. A proposito di Conte, il tecnico bianconero stamattina alla domanda, visti i tre precedenti fra Juve e Lazio quest'anno, non è mai riuscito a batterla Lazio e a lei, quindi chiaramente ha detto c'è sempre una prima volta. Riallacciandomi a questa considerazione, vede da parte anche degli avversari una Lazio che è vista un po' come più vulnerabile rispetto a qualche mese fa e quindi c'è anche più ambizione da parte degli avversari, più convinzione di poterla battere? Domanda era?